I conti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 8 ottobre, 10:08 minuti 30 primi, siamo in diretta dagli studi di Milano, finalmente una Milano non più assolata estiva, però c'è un'atmosfera finalmente un pochino più fresca e eccoci qui i conti della belva, il vostro appuntamento con un aperitivo un pochino, diciamo, non solo piacevole con le bollicine, ma un inizio di fine settimana in cui riflettere sui conti pubblici, privati, su come si parla dell'economia nel nostro paese. E come sempre grazie per l'ascolto in diretta o in podcast, e Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia. In studio con me Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè ci aggiunge per telefono dopo le 10:30, e vi dico subito di che cosa parliamo oggi per invitarvi a intervenire. L'800 24 00 24, lo sapete, è il numero di telefono per le opinioni, 349 238 6666. Iniziamo come sempre tra poco con il nostro appuntamento fisso con Mario Seminerio per vedere la settimana che cosa ci ha regalato sui conti, le previsioni in Italia e nel contesto internazionale. Dopodiché alle 10:30 cominciamo una parte dedicata a voi, perché da due settimane vi abbiamo chiesto, non appena appreso che alcuni istituti bancari italiani iniziavano a praticare aggravi di costo per la tenuta dei conti sui clienti, giustificandolo, alcuni sì, alcuni no, alcuni a mezza bocca, con la necessità di recuperare gli oneri di compartecipazione al finanziamento del fondo di risoluzione bancario, quello che interviene sulle crisi degli istituti, vi abbiamo chiesto di segnalarci se la cosa vi riguardava. Sono arrivati pacchi di lettere e allora parliamo esattamente di questo, perché avremo anche alcuni di voi che ci hanno scritto e segnalato a telefono, gli facciamo esporre la cosa, e avremo con noi un avvocato, un esperto di diritto bancario, Piero Cecchinato, insieme al quale riflettere sulle basi di legittimità di questo tipo di richieste a seconda di come sono fatte e i margini per la tutela dei vostri diritti come clienti bancari, che sono diritti che vanno rispettati, quindi non vi si può chiedere automaticamente con l'idea che voi diciate non posso fare niente, prendeteveli questi soldi. Sullo sfondo poi quello che sta succedendo ovviamente alle quattro banche risolte, alle banche venete che sono controllate da Atlante, la cui situazione evolve, ma non proprio nel senso ottimistico che ci avevano raccontato. Dopo le 11, quindi chiamateci ancora su questo all'800 24 00 24 se volete chiedere opinioni o pareri o segnalarci la vostra situazione. Poi dedichiamo una mezz'ora all'evoluzione che sta avvenendo in Gran Bretagna in vista della Brexit, perché molti di voi avranno visto questa settimana emergere dopo il congresso o nel corso del congresso dei Tories guidati da Theresa May degli aspetti, diciamo, un po' preoccupanti, per così dire, ecco, se vogliamo usare un aggettivo perifrastico, visto che il segretario agli interni, il ministro degli interni britannico, ha iniziato a dire che le imprese britanniche devono fare delle liste di dipendenti stranieri per segnalare i posti di lavoro che vengono sottratti ai britannici da riservare in futuro ai britannici. Sono arrivate copie di scuole britanniche in cui si chiedono, anche qui da parte delle autorità scolastiche, liste di studenti nati fuori dalla Gran Bretagna. La London School of Economics ieri ha pubblicato una lettera che gli viene dal Ministero dell'Istruzione, nella quale si chiede una ricognizione di tutti i docenti stranieri, perché non dovranno più collaborare con il ministro di UK per ragioni di sicurezza nazionale. Allora ci interroghiamo su questo, abbiamo due colleghi giornalisti, perché a questo poi ha dato la risposta più secca, paradossalmente in tutta Europa è venuta la Merkel, e quindi la domanda è: ma meglio la May o meglio la Merkel? Cosa diavolo ci sta succedendo? Dite la vostra anche su questo, ovviamente. È un dibattito che ovviamente nelle colonne italiane, delle cronache politiche, sembra lunare, perché la politica italiana si occupa solo di un tema, praticamente il referendum, ma vabbè, ma di questo fino al 4 dicembre credo che dovremo farcene una ragione, per così dire. Ed è proprio sul referendum che la nostra rubrica alle 11:30, che in questo ciclo teniamo fissa su i paradossi della comunicazione pubblica italiana, è proprio su questo, è di questo che parliamo. parleremo, e la tematica sarà l'enorme polemica sul quesito del referendum rispetto a chi lo ha impugnato, avendolo impugnato, avendolo a propria volta sposato però in precedenza, quindi insomma un classico pasticcio all'italiana. Mario, che cosa in questa settimana ti ha colpito oltre a questo? Allora, abbiamo da qualche settimana Eugenio Scalfari che domenica nel suo editoriale Omelia diciamo invoca una idea geniale per abbattere il cuneo fiscale di 80 o 90 miliardi, cioè scaricare questi 80 o 90 miliardi di contributi sociali sulla fiscalità generale e su quanti guadagnano più di 120 mila euro annui. Ora, Scalfari si lamenta perché Renzi non gli dà risposta e non ottiene risposte alla sua meravigliosa trovata. Noi abbiamo fatto un paio di conti. Abbiamo visto che, secondo dati dell'Agenzia delle Entrate del 2014, in quell'anno c'erano sopra i 120.000 euro di imponibile circa 270.000 persone fisiche su 40 milioni di contribuenti. Queste 270.000 persone fisiche hanno pagato un'imposta netta di 21 miliardi di euro su 151 totali di gettito netto. Ora, facendo con un complesso algoritmo 90 miliardi di fiscalità aggiuntiva per abbattere il cuneo fiscale su 270.000 persone, fanno 330.000 euro di IRPEF in più all'anno. Se poi consideriamo che l'imposta a testa, certamente, se poi consideriamo che nello scaglione di reddito IRPEF tra i 200 e i 300.000 euro annui nella coorte, l'imposta netta media è stata di 87.000 euro nel 2014, forse Scalfari riesce a capire per quale motivo non gli giungono risposte. Però diciamo è abbastanza singolare che in questo paese ci siano, anzi continuino ad esserci e si moltiplichino, degli opinion maker che non sanno far di conto e che si indignano pure perché non ricevono risposte da altra gente che non sa far di conto esattamente come loro. Bene, però effettivamente quella proposta è paradossale, per così dire, nel senso che proprio nasce da un'incomprensione totale. Innanzitutto dovrebbe dire chiaro che non c'entra niente la tassazione sul reddito, è una mega patrimonialona che però a quel punto anche quella per fare 90 miliardi avrebbe... Ma ogni anno, che cosa succede? Che la gente si deve vendere i cespiti patrimoniali per pagare la patrimoniale. Dà l'idea che proprio non sappiamo più dove sta. E noi, io voglio anche personalmente, insomma sono attaccato alla figura del fondatore, però qualcuno gli dovrebbe dire, passando quei pezzi, con grande rispetto, guarda, queste cose non si può scrivere, ecco tutto qui. Io devo dirvi, cari ascoltatori, che in settimana c'è una cosa su tutte che mi ha colpito, è il testamento di Bernardo Caprotti, perché il testamento di Bernardo Caprotti oltre a confermare la natura ferrigna dell'imprenditore che ha avuto molti difetti, non si è proiettato internazionalmente fuori dall'Italia, quello che volete voi, ma nelle disposizioni, non sto parlando delle cose alla famiglia, quelle sono il portato di quello che è avvenuto con i figli, sto parlando di alcune disposizioni del tipo l'itinerario del funerale alle 8 del mattino non oltre, perché non bisogna rompere le scatole alla gente che lavora, oppure l'indicazione niente necrologi perché riempirebbero le pagine dei fornitori artigiani per farsi vedere rispetto a chi deve continuare a guidare l'azienda. Ecco, ci sono alcune indicazioni, oppure il no alla cultura cattocomunista che non sopporta il successo del nostro paese, che sono per così dire il nocciolo duro di questo straordinario imprenditore italiano, del cui gruppo adesso vedremo che cosa verrà indicato, un approdo il gruppo Old olandese che è un po' problematico allo stato attuale, però insomma ecco, sono le... E la rettitudine personale, qualunque cosa voi pensiate di Bernardo Caprotti, che fino alla fine mantiene. E diciamo che per gli imprenditori italiani questa dovrebbe essere la bandiera un po' più diffusa. Ecco, parlo di rettitudine e mi fermo qua. Chi vuole capire, capisca. Ci sentiamo tra un minuto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le messe. Della belva. Ed eccoci qui, tornati su, sono le 10:19 primi. Iniziamo con il nostro resoconto da parte di Mario Tagliente. Potuto però preciso, questo è il punto, preciso sui numeri dell'economia italiana e internazionale questa settimana con la sigletta. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non vi preoccupate. Mo me lo segno, numeri, capite? E allora... Ma diciamo che siamo ancora in trepida attesa delle spiegazioni del governo sulla nota di aggiornamento al DEF, mi pare il tema della settimana, no? Ma Moscovici ha già detto che ci danno tutto. Sì, esatto, ha detto che bisogna combattere il populismo. Vabbè, insomma, diciamo, ognuno può dire quello che crede, no, mi sembra abbastanza. L'indicazione consente a ciascuno di individuarlo trasversalmente, perché sì, sai, qua oramai... Esatto. No, ma che cosa si può dire della nota di aggiornamento al DEF? Martedì il ministro Padoan spiegherà definitivamente, si spera. Sapete com'è la polemica? Lo scenario tendenziale vede il PIL italiano dell'anno prossimo a più 0,6. Il quadro programmatico del governo lo vede a più 1, di cui tre quarti conseguenza della eliminazione dei 2 punti di aumento dell'IVA. Vabbè, qui... Però questa non è l'unica cosa... che suscita... Aspetta, diciamo... richiamiamo ai nostri ascoltatori. Fantastico, capite? Allora, Giannino decide per il 2018 2 punti di PIL in più di tasse, che non scattano. Esatto. Poi, la sera prima dice, cambio idea, esatto. Balzo del PIL per questo. Beh, certo, certo. Diciamo però che nel modello econometrico questo esercizio stilistico ci può anche stare. Infatti non è un caso che i consumi delle famiglie in presenza di aumento IVA per l'anno prossimo erano stimati a più 0,4 nel tendenziale e balzano all'1% nel programmatico. Però qual è il problema? Che noi abbiamo l'anno prossimo, secondo il governo, avremo un mini boom degli investimenti. Un mini boom degli investimenti in macchinari, impianti, ma soprattutto costruzioni. Costruzioni. Quindi non è chiaro se questo boom delle costruzioni sarà indotto dalla ricostruzione delle zone terremotate che ammontano e assommano a 5.000 anime in una zona, diciamo, a bassa densità di aziende, o se sono la parte d'avvio del Casa Italia o che cosa. Per cui poi, per quanto riguarda invece gli investimenti, forse ci sarà il contributo di Industria 4.0 con l'iperammortamento al 250%, però anche lì è abbastanza, intanto non è stato ancora cifrato nulla nella legge di bilancio a quanto ammonteranno gli incentivi. Tra l'altro ieri leggevo su un quotidiano economico, che non siamo noi ovviamente, che, c'è l'ipotesi per quanto riguarda le start-up nel piano Industria 4.0 di consentire allo sponsor della start-up di dedurre le perdite della startup. Attenzione, le perdite. Quindi non stiamo parlando di consolidamento con il metodo del patrimonio netto o altre cose, no, di dedurre le perdite. Al che io mi dico, questa cosa mi ricorda molto, non lo so, forme evolute di bare fiscali, non so, visto che siamo un paese dove l'elusione e le furbate sono sempre all'ordine del giorno, però noi attendiamo con ansia che il ministro Calenda e il governo ci facciano sapere il piano operativo. Ma a proposito del ministro Calenda, Oscar, nei giorni scorsi in un convegno pubblico il ministro Calenda ha detto che prevede per il 2017 un crollo, letteralmente, del commercio internazionale. Sì. E il ministro Padoan, che era presente a quel convegno, diciamo, gli ha fatto eco parlando di andamento pauroso del commercio internazionale che cresce meno del PIL. Ora, andando a vedere come il Tesoro e il governo hanno modellato la nota al DEF, guardando le variabili esogene internazionali, vediamo che, secondo il governo, il prossimo anno il commercio internazionale cresce dal 2,1 al 2,6 e nel 2018 accelera al 3,5 e nel 2019 al 4,1. Ora, scusate, detto da un umile elettore contribuente, com'è sta cosa che andate in giro a dire che c'è un crollo del commercio internazionale? Se nei documenti ufficiali... E dopodiché nel documento che modellizza lo scenario di crescita per i prossimi 3 anni del nostro paese, vedete addirittura un'accelerazione del tasso di crescita che andrebbe prossimo a triplicare tra il 2016 e il 2019. Fatecelo sapere, ma soprattutto tenete sotto controllo i vostri gemelli che vanno in giro a dire esattamente il contrario di quello che dite voi. Da questo punto di vista bisogna, oggi volevo segnalare, c'è un bell'articolo sulla Stampa di Andrea Montanino. Andrea Montanino è un ex dirigente generale molto stimato del Tesoro italiano, che si è trasferito negli Stati Uniti, dove in un grande think tank guida appunto la divisione che si occupa del commercio mondiale, eccetera eccetera. E c'è un bell'articolo perché identifica i tre fattori che sono dietro questo fenomeno, che in realtà è l'inversione di un paradigma su cui siamo andati avanti nella globalizzazione dal 2001 in avanti, cioè l'elasticità dell'andamento del commercio mondiale rispetto al PIL mondiale era superiore all'unità. Adesso siamo da anni in cui questa cosa si è invertita, però ciò che lo determina in buona sostanza è il grande ritorno al protezionismo, che si somma alla crisi dei paesi emergenti. Il ritorno al protezionismo significa, in altre parole, molti provvedimenti votati da una congerie di paesi su l'erezione di dazi, l'effetto di alcune decisioni verso le quali stiamo andando, o mancate decisioni. È ovvio che il trattato transatlantico a questo punto è su un binario morto. Pensate, per esempio, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea significa per il Regno Unito, che non è iscritto all'Organizzazione Mondiale del Commercio, esatto, che deve oltre che riconsiderare una trattativa di 2 anni, e vedremo dopo, con accordi bilaterali, saranno centinaia con l'Unione Europea, tutto ciò che regola la libertà di circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, ma deve ripartire dall'inizio anche con l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Stiamo parlando del Regno Unito, non esattamente di un posto che per servizi finanziari al mondo, tanto per dirne una, è un angoletto trascurabile. Ecco, tutto questo ha degli effetti sempre più rilevanti, e gli effetti trascinamento, ovvio, è minor domanda mondiale. Questo effetto diventa più rilevante per un paese che ha il traino da export come molla fondamentale, stante la sua domanda interna e i suoi consumi flat dopo aver arretrato per anni, come il nostro paese. Ulteriore interrogativo, come vedete, rispetto. Però questa settimana, gennaio, hanno detto: ma il Fondo Monetario, tutto sommato, ha quasi sposato le previsioni del nostro paese. 0,9 contro 1. È veramente, fa quasi tenerezza vedere questo dibattito sui decimali di punto. Vabbè, diciamo. Oggi, per chi volesse, se andate sul sito del World Economic Forum, quello che organizza Davos, eccetera eccetera, è uscito ieri una graduatoria. Sono 136 paesi che vengono stimati. Certo, questi ranking sono sempre criticabili, me ne rendo conto, però è un ranking di paesi che vengono valutati secondo una scala da 1 a 7, 7 è il voto più alto, quindi il top performer di chi è più virtuoso, di chi spreca di più o ha meno sotto controllo la spesa pubblica. Individuate, indovinate chi è dei 136 paesi, di quelli grandi, rilevanti, chi è in fondo alla graduatoria. Ma sì, l'avete capito, purtroppo è l'Italia, sulla quale, per via anche di questa interpretazione molto discutibile che fin dall'inizio il governo ha dato del referendum del 4 dicembre, è caduta una specie di singolare magia, un incantamento. Cioè, tutto si è fermato, tutti confermano che gli investimenti sono fermi per questo, non solo quelli stranieri, quelli anche delle grandi imprese italiane, tutto si è fermato e si sta oltretutto, consentitemi, accartocciando in un'atmosfera che diventa sempre più surreale. Io considero che sia anche a questa atmosfera un contributo le assoluzioni che sono venute ieri, perché la soluzione soprattutto di Marino a Roma si è capito in poche ore che sarà una gran aggiuntiva, che conterà anch'essa nel referendum, vedremo come, ma conterà. E come tutto questo, dite, cosa c'entra questo con l'economia? C'entra, perché purtroppo questi fattori si sommano tutti, per così dire. E non dimenticate, in un angolino, anticipiamo un po' il tema, Mario, che trattiamo dopo le 10:30, della condizione non esattamente esaltante dell'evoluzione dei problemi bancari aperti nel nostro paese. Sì. Sicuramente ci abbiamo le quattro good bank non così good, diciamo, per le quali, come dire, sono fiorite nuove sofferenze, e quindi non si riesce a capire chi se le prenderà in carico. Ieri leggevamo di cose abbastanza raccapriccianti, del tipo che potrebbe tornare in ballo Atlante per riuscire a ripulirle e poterle dare, non si sa bene a chi, se a Ubi, Apollo, attenzione, i famosi invasori americani che erano stati respinti con perdite al porto di Genova mesi addietro. Carice. Esatto, ma soprattutto la cosa che veramente è preoccupante è che il sistema bancario italiano, mettendosi chiaramente in cordata per salvare queste quattro banche che sono l'1% degli attivi del sistema, porterà a casa una minusvalenza terrificante. E di questo parleremo tra poco, di cui faranno le spese i correntisti e i clienti. Ma, e poi abbiamo Montepaschi, per il quale diciamo attendiamo, sospendiamo il giudizio, attendiamo la riscrittura del piano industriale che verrà presentato il 24 ottobre dal nuovo capo azienda Marco Morelli. E però diciamo che da quello che filtra, visto che oramai questo è diventato un genere letterario, diciamo non sembra che le cose, come dire, procedano in maniera liscia e lineare. Ecco, forse quando il presidente del consiglio un paio di mesi fa o giù di lì faceva le interviste alla CNBC Europe dicendo la più grande operazione di messa in sicurezza eccetera eccetera, abbiamo risolto, abbiamo salvato, abbiamo fatto, poi il piano è già diventato qualcosa di altro rispetto a quello di cui parlava il presidente del consiglio, oggettivamente c'è un problema. E poi soprattutto è un peccato che il Presidente del Consiglio non abbia perso e non perda occasione per andare in giro a dire che lui è preoccupato delle condizioni del sistema bancario tedesco. Credo che questo porti un po' sfiga a se stessi, andare in giro a dire cose di questo tipo. Sì. E la Schadenfreude non è mai una buona mossa, cioè il compiacimento per eventuali problemi di altri quando poi se ne hanno di grande rilevanti a casa propria. Vi segnalo anche su Corriere di oggi, Corriere Economia, pagina 43, c'è un articolo di Federico Fubini a conferma di quello che vi stiamo dicendo, ma aggiungendovi i problemi delle due banche venete, quelle che oggi sono controllate da Atlante. Ecco, Atlante di Penati ha trovato un interlocutore oltreoceano che si chiama Atlante, anche lui, perché si chiama Atlas, ed è un fondo guidato dall'ex amministratore di Barclays. Se non che, sorpresa sorpresa, si fa per dire, visto che ve lo diciamo fin dall'inizio, l'interesse eventuale a rilevare le due venete ha alcuni punti di partenza. Primo, non crediamo che abbiano finito di produrre crediti deteriorati, ma soprattutto abbiamo un piccolo calcolino che ci dice che insomma 3.000 almeno, forse 4.000 dei 10.000 dipendenti, ci dovete alleggerire di questo sul totale dei 10.000, perché quando si ha un cost income superiore all'80%, capite che il compratore dice: ma così come si fa a generare reddito? Ecco, queste sono le condizioni reali attualmente della partita, 4 banche risolte e delle due venete, e noi qui continuiamo a produrre letteratura sul fatto che Mediobanca non andrebbe d'accordo con Atlante, che dietro ci sarebbero cose con JP Morgan eccetera. I numeri, ecco, il tempo passa e la situazione non vede all'orizzonte per il momento passi avanti. Vedremo il nuovo piano industriale di Siena, ci sentiamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto: almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore, perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire: sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Ecco, mai come questa volta direi che lo stacchetto di Quinto Potere sull'indignazione per alcune cose che ci colpiscono, di una crisi lunga oramai, di modello, di paradigma, dite quello che volete, perché ci colpiscono in prima persona, è legittimo. Parliamo delle richieste che alcune banche operano sui loro clienti di aumento dei costi di gestione dei conti correnti. Alcune giustificandole esplicitamente con la necessità di recuperare gli oneri di finanziamento che ogni banca è tenuta a dare in ragione della quota di mercato che ha sul mercato italiano al fondo di risoluzione, cioè lo strumento gestito poi dalla Banca d'Italia, l'autorità di risoluzione incardinata presso la Banca d'Italia per intervenire le banche scassate. Vi abbiamo già segnalato la singolarità di un paradosso per cui noi salviamo i correntisti delle banche risolte a novembre e poi chiediamo i soldi ai correntisti di quelle su cui non si è fatto l'intervento, ma la questione è di capire precisamente quali siano i margini della legittimità. E moltissimi di voi, io qui c'ho un fascio di vostre lettere che ci hanno mandato le fotocopie delle condizioni mutate da parte delle banche. Allora, partiamo, ne abbiamo scelti solo due di questi ascoltatori e poi è con noi un avvocato esperto di diritto bancario, Pietro Cecchinato, che intanto ringrazio di aver accolto il nostro invito per poi dare un parere alla richiesta dei nostri ascoltatori. Grazie, buongiorno avvocato Cecchinato. Grazie, buongiorno a voi. Allora, cominciamo con i nostri due ascoltatori, cominciamo con Massimiliano Landini. Buongiorno Landini. Buongiorno, grazie per quello che fate tutti i giorni. No, lei ci ha scritto da Castel Guelfo di Bologna, c'ho la lettera in mano, è così, no? Sì. Ecco, che spieghi sinteticamente la comunicazione che ha ricevuto. Io ho un conto al Banco Popolare, quasi tutto online, per cui lo sportello non lo vedo mai, e come mail interna ricevo le comunicazioni. Dopo, in seguito alla sua trasmissione, io ho controllato la mia posta ed effettivamente, regolare come le tasse e la morte, è arrivata questa comunicazione che mi avrebbero addebitato con tutto un giro di parole che insomma vedete scritto, il 25 euro per conto. Immediatamente ho controllato anche il conto dell'azienda, uguale, quindi sarebbero stati 25, 25, 50 euro. Dopo io ho ascoltato... Ma lei se n'era reso conto? No, perché non dà un occhio alle comunicazioni? No, non ci guardo, ma io ho fatto una mia piccola indagine interna, ho guardato me e ho guardato una biologa che lavora e una collaborazione con qualcuno della stessa banca, anche lei non se n'era reso conto, l'ex morosa con i suoi tre figli, quindi quattro conti in tutto, non se n'era reso conto, mia madre che ha un conto col mutuo non se n'è reso conto, quindi direi che conosco abbastanza stupidi, nessuno se n'è reso conto. Nella comunicazione della banca è esplicitamente indicato che serve per recuperare gli oneri di compartecipazione al fondo di risoluzione? Sì, è scritto a chiare lettere. L'unico punto in cui la rendono nebulosa, e la cosa è stata la ciglia e la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è il come la imboscano il 30 dicembre, come la imboscheranno, perché, leggo letteralmente, la metteranno come spese per elaborazione competenze nel periodo di liquidazione. dunque, avviso a tutti gli ascoltatori e a tutti i giornalisti, il verbo imboscare fino al 4 dicembre non si può usare, perché sembra che possa indurre in tentazione in vista del voto del referendum per la radice verbale boschi, imboscare rispetto al sostantivo plurale boschi del ministro Boschi, quindi evitiamo imboscare perché sennò mi becco un avviso di par condicio violata. Rido, ma fino a un certo punto, per così dire. Allora, un altro ascoltatore. Intanto grazie a Massimiliano Landini, che in radio segue adesso che cosa poi con l'avvocato Pietro Cecchinato, diciamo a chi ha ricevuto queste comunicazioni. Comunque il 99% di voi che ci avete scritto ci hanno detto, se non ci avvisavate, col cavolo che ce ne saremmo resi conto. Comunque, preghiera, leggeteveli gli estratti e le condizioni che vengono dalle banche. I soldi sono vostri, non so come dire. Esatto. Cioè, ragazzi, è come quando dite, vi trovate in mano i titoli delle banche e dice, ma io, sai, me l'hanno detto, ho capito, ma prima di fare delle scelte informatevi, guardate i costi comparati dei conti correnti e fatevi sempre la domanda, perché come evolvono nel tempo i costi, dove conviene tenerli i soldi, cosa conviene comprare e cosa no. Però detto questo, sentiamo Alessio Gelmini. Alessio, prego. Buongiorno. Grazie dell'invito. Allora, lei ci chiama da Verona. Cliente di Banca Popolare di Verona. Banca Popolare di Verona. Da circa 40 anni. Lei se ne era reso conto e la comunicazione che le è arrivata cosa dice? No, a me è arrivata una comunicazione, cioè è arrivata una lettera con una proposta di modifica unilaterale del contratto, dove viene specificata la variazione della condizione, che per pagare questo fondo di risoluzione la banca deve mettere dei soldi e per necessità deve perciò mitigare il detto sborso. Ricorrono pertanto i presupposti ai sensi dell'articolo 118 TUB per proporre l'adeguamento delle condizioni economiche dei rapporti. Sì. E per cui mi viene aggiunto, come l'altro signore, una spesa per elaborazione competenze del periodo di liquidazione di 25 euro. Però faccio notare a chi ci ascolta, questo, a seconda di quale comunicazione abbiate ricevuto, che è una comunicazione il cui tenore formale è già diverso rispetto alla prima, perché la prima comunicava una cosa con una giustificazione. Questa seconda comunica, ed è più coerente all'addizione dell'articolo 118, una proposta di adeguamento dei costi. La proposta implica che lei sappia che di fronte a una proposta ovviamente ha un diritto da esercitare. La prima che abbiamo sentito, quella di Massimiliano Landini, è una secca comunicazione, TAF, che dice tanto non lo sapete qual è il vostro diritto, io non ve lo dico, beccatevi sto sovraccosto. Invece, solo che Alessio, nella proposta che correttamente tu ci hai ricordato di aver ricevuto, c'è scritto poi che cosa puoi rispondere a tale proposta? Sì, alla fine della lettera c'è scritto che il cliente può accettare o rifiutare la proposta. Esattamente. E chiudere il rapporto con la banca. E chiudere il rapporto senza oneri, c'è scritto? Sì, certo. Tengo a precisare una cosa, che io ho chiamato la filiale e mi hanno espressamente detto che è una tantum. Cioè, questa spesa qua è una tantum. Per cui è una spesa che in teoria dovrebbe essere applicata quest'anno e poi in teoria... Ecco, io a questo aggiungo, ti ringrazio, che alcuni di coloro che ci hanno segnalato casi analoghi ai vostri, ci hanno aggiunto che invece parlando in filiale, il capo della filiale diceva, ma poi guardate che per i migliori clienti, questo sono due segnalazioni, per i migliori clienti l'anno prossimo ve li restituiamo, non a tutti però, ai migliori clienti. Allora questa cosa ovviamente c'ha, adesso io non so se sia la fantasia di qualche capo di filiale bancaria, però detto questo ci sarebbe anche la discriminazione sulla restituzione. Il quadro comunque è questo e grazie a tutti voi. Allora, avvocato Piero Cecchinato, da cosa cominciamo nel dare risposta ai nostri ascoltatori? Ma secondo me è giusto ricordare innanzitutto che le banche hanno la facoltà nel nostro ordinamento di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto. E la ragione è intuibile, le banche svolgono un'attività particolarmente delicata che ha delle implicazioni sistemiche che noi tutti, voi in particolare, ben conoscete, e per cui in astratto è giusto che si conceda ad una banca di poter aggiustare il proprio conto economico, perché di questo si tratta alla fine. Certo. Se questo può servire ad evitare delle ripercussioni sistemiche. Questo però non può essere fatto senza limiti. La banca non aveva alcun limite fino al 2006. Nel 2006 è intervenuto quello che noi conosciamo come decreto Bersani. Il problema era soprattutto di concorrenza al tempo, perché nel regime dell'articolo 118 che ha citato anche il vostro ascoltatore, che era in vigore prima del decreto Bersani, le banche avrebbero potuto modificare unilateralmente le condizioni del rapporto pressoché senza alcun limite. E l'unica contropartita che veniva data al risparmiatore era quella di poter recedere al rapporto in un brevissimo termine di soli 15 giorni. Il problema che si veniva a integrare era soprattutto di concorrenza. Perché? Perché il cliente, all'atto dell'adesione a un rapporto bancario, non aveva alcuna certezza su quelle che sarebbero state in futuro le condizioni del proprio rapporto, che la banca avrebbe potuto modificare quando voleva. E dall'altra parte, il termine così breve di 15 giorni impediva di fatto al cliente di guardarsi attorno per poter cercare nel frattempo un istituto che praticasse condizioni migliori. E quindi viene modificato. Esatto, su questo intervenne l'antitrust nel 2006 con una segnalazione che fece abbastanza sorprendente per gli addetti al settore e che costrinse in buona sostanza ad aggiustare la normativa. Intervenne quindi il decreto Bersani modificando l'articolo 118 nella versione che conosciamo oggi. La versione che conosciamo oggi consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto purché sussista, dice la norma, un giustificato motivo. E questo motivo è giustificato o no? Allora, nel caso di specie, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, il patrimonio di principi giuridici che si sono venuti a Noi tecnici possiamo dare per acquisiti materia, che sono frutto di una serie di decisioni, soprattutto della giurisprudenza dell'arbitro bancario finanziario e di una circolare ministeriale del 2007, e ci consentono di poter ritenere giustificate quelle modificazioni che siano necessitate da degli eventi che possiamo definire macroeconomici generali che incidono pesantemente sul rapporto banca-cliente. Questi eventi esterni potranno essere giustificati, cioè potranno legittimare una modifica delle condizioni unilaterali solamente laddove si possono anche ritenere imprevedibili e inevitabili per la banca, perché quello che è pacifico per l'arbitro bancario finanziario è che non sono ammesse modifiche unilaterali delle condizioni economiche con l'unico scopo di recuperare margini di profitto perduti. Ho capito, ma la domanda diventa, perdoni, se la scelta di un sistema, di un regolatore bancario, di mettere in piedi strumenti cooperativi per affrontare costi di risoluzione, quindi per aggiungere uno strumento, una specie di cuscinetto di compensazione rispetto a quello che prevede la normativa europea della risoluzione delle banche, possa essere compreso nella categoria di un evento sistemico che modifica le condizioni economiche oppure no, perché questo è il punto di fondo. E allora, su questa questione sospendiamo un minuto, torniamo dopo il traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qua, cari ascoltatori, stiamo parlando della richiesta di aggravio dei costi tenuta dei conti correnti che banche d'Italia praticano, dichiarano con formule varie e diverse, ma per recuperare gli oneri del fondo di risoluzione bancaria, eravamo arrivati al punto di porci esplicitamente la questione: ma questo motivo è un giustificato motivo secondo il nostro ordinamento, cioè rientra in quelle variazioni di condizioni macro che generano effetti tali da avere un oggettivo comprovabile effetto sul rapporto bancario, oppure invece sono frutto di banche mal gestite, e questo certo non è un evento sistemico generale, e di decisioni di un sistema di costruire uno schema cooperativo. Anche questa è una decisione, non è mica un effetto automatico inevitabile. Allora, abbiamo con noi l'avvocato Piero Cecchiato, ma però ci ha raggiunto anche Carlo Alberto telefonicamente. Compare, come stai? Come stai? Sto bene, volevo rispondere all'avvocato qua, perché bisogna essere molto chiari. Tre punti. Primo, che non sia obbligatorio fare questo, lo dimostra il fatto che qualche banca ha scelto di non farlo. Esatto. E quindi, siccome chi ha scelto di non farlo ha ottime ragioni per farlo, per esempio trasparenza, magari buona gestione, magari perché non ha partecipato alla colletta collettiva. Primo elemento, siccome è una decisione soggettiva e arbitraria del management bancario, non si vede perché è necessario per uno e non debba essere per gli altri. Secondo tema è, signori, lo spirito della legge europea è che ciascuno si paga i conti della banca che si è scelto. Solo alla fine, quando si è partecipato al cosiddetto burden sharing, cioè alla condivisione degli oneri, interviene il fondo comune di risoluzione, che però è strumento collettivo regolato a livello europeo e che speriamo, insomma, completi il suo ciclo di costituzione. Ma il principio fondamentale della solidarietà bancaria, che era vero fino all'anno scorso, è stato sostituito da un principio di responsabilità, proprio per evitare quei fenomeni di azzardo morale, no? di collusione che sono verificati anche in Italia. Il che vuol dire che la banca va risanata dai suoi azionisti, dai suoi obbligazionisti, dai suoi correntisti prima che partecipino gli altri. Solo in estrema ratio interviene, diciamo, un backstop collettivo a quel punto, con risorse che però le banche devono dichiarare ex ante di voler mettere a disposizione per partecipare al fondo comune di risoluzione. Quindi l'ultimo punto che devo dire molto semplicemente è: siccome è soggettivo e non risponde allo spirito europeo, l'unica difesa seria da parte dei clienti è chiedere conto alla propria banca e, se necessario, cambiarla. Oh. Allora, Cecchinato, ha sentito l'opinione tagliente di Carlo Alberto? Sì, l'ho sentita. Io sono fondamentalmente d'accordo, nel senso che anch'io ho molte riserve sul punto, perché dal punto di vista tecnico, maggiori oneri di contribuzione a un nuovo fondo che viene costituito per legge viene definito un aggiustamento da adeguamento normativo. Però gli aggiustamenti da adeguamento normativo potranno integrare un giustificato motivo alla luce dei principi che abbiamo velocemente richiamato prima, solo se connessi alle variazioni di condizioni economiche generali. È vero che il fatto che non tutte le banche si siano trovate costrette a applicare una maggiorazione di questo genere di per sé rivela che non c'è nessun evento macroeconomico generale che ha influito pesantemente sul mondo bancario, e questo secondo me è abbastanza chiaro. E poi c'è l'interrogativo, sì, rimane aperto, però io mi sento di rispondere come professore, cioè se il senso dei nuovi meccanismi di risoluzione, il bail-in, il burden sharing, eccetera, è quello di evitare che i costi della crisi bancaria si riversino su soggetti che sono estranei all'interessato, con il riadempito degli oneri di contribuzione al fondo da parte delle altre banche ai propri clienti non si fa altro che far tornare a partecipare tutti alla crisi. Dopodiché si aggiunga che... ma oltretutto, io ripeto, in prospettiva noi abbiamo degli oneri che rispetto agli interventi che sono stati fatti nelle quattro banche risolte eccetera eccetera stanno aumentando, come si vede, e ne abbiamo parlato prima con Mario Seminari. Cioè cosa diventa una prospettiva per cui qui di anno in anno le banche aumentano, che poi c'è da dire che per salvare le quattro banche risolte tutto il sistema ha versato tre anni di quota. Esatto. Quindi è stato un colpo terrificante. Che era il massimo dell'anticipazione straordinaria prevista dal decreto istitutivo. Con questi risultati, peraltro. Però, visto che ci sono molti ascoltatori che mandano messaggi, eccetera, possiamo fare anche collaborativamente, fateci sapere, quali e quante sono le banche che stanno mandando comunicazione. Diciamo che fino ad ora noi abbiamo messo sul banco degli accusati Banco Popolare. La settimana scorsa, due settimane fa, abbiamo visto che anche il gruppo UBI applica questo aumento. Un ascoltatore del Veneto segnala che anche un piccolo istituto locale ha applicato lo stesso aumento di oneri, per cui fateci sapere quali sono le banche che stanno applicando queste maggiorazioni. E soprattutto guardate che la cosa non è finita, per così dire. Quindi, avvocato Cecchinato, i termini di una impugnativa in materia, facendo questione di legittimità, alla luce della BRRD, del decreto istitutivo del fondo di risoluzione della Bersani, seccamente ci sono o no? Allora, secondo me sì. Ricordiamo anche che il cliente che riceve la comunicazione ha due opzioni fondamentalmente: recedere dal rapporto nel termine di due mesi, l'abbiamo detto, la seconda, e sfruttare quei due mesi per trovare un'altra banca, oppure rivolgersi un po' al consulente e svolgere il reclamo alla banca. Allora il problema sarà vedere se di qui a qualche mese mettiamo in piedi un'impugnativa con qualche associazione. E qui ci fermiamo. Dopo Giornale Radio. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con Oscar e Mario in studio. Molti di voi hanno risposto, Mario, all'appello che hai lanciato. Sì, c'è un'ascoltatrice che dice: per quanto riguarda i V-Bank, i prelievi Bancomat prima erano gratis presso qualunque sportello, chiaramente essendo una banca che opera online. Adesso ci sono solamente 3 prelievi gratuiti al mese, mentre tutti i prelevamenti successivi vanno a 1,90 euro. E insomma, queste sono antiche tecniche per recuperare commissioni. Poi un altro ascoltatore, Pasquale della provincia di Roma, segnala che lui ha il conto presso l'Unicredit, un'agenzia a Velletri, e c'è un aumento di 2 euro al mese. Questo, allora, noi dovremmo vedere chiaramente gli elementi, la giustificazione, eccetera. Che le banche tendano in maniera strisciante, come diciamo da molto tempo, a recuperare redditività attraverso l'aumento delle commissioni è un dato di fatto. Bisogna vedere qual è la motivazione ufficiale. Unicredit, esatto. Io sono tenuto a dire, Unicredit 2 settimane fa ci aveva pregato, non aveva messo in atto nessuna azione impropria di pressione generica, cioè semplicemente comunicato, guardate, noi stiamo applicando, è vero, delle variazioni di costi di tenuta dei conti, però lo facciamo solo per alcuni conti e solo per quelli che sono soggetti ad aggravamenti di compliance europea. Questo è ciò che Unicredit ci pregavano di dire. Naturalmente, se non vi torna che sia così, fatecelo sapere. Vabbè, comunque, Oscar, che ci sia una inflazione di servizi bancari, inflazione dei prezzi dei servizi bancari, molte volte anche con sufficiente creatività, non lo stiamo scoprendo oggi. No, certo. Non è una specificità del bail-in, post bail-in, perché le banche cercano di recuperare redditività sulle commissioni. Questo è un dato oggettivo. Ci dicono anche Poste Italiane, prima il conto Banco Posta era gratuito in alcune forme, adesso è 12 euro l'anno. Vabbè, questo è il problema generale. Del resto, signori, cost income elevato e margine di intermediazione dovuto alla... Poi date la colpa all'euro e alla Merkel, mi raccomando. Esatto, che come tutto questo non c'entra nulla. Sentiamo qualche ascoltatore. Cominciamo con Franco da Firenze. Franco, prego. Pronto? Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io vorrei essere un attimo provocatorio, ma neanche tanto. Cioè a dire, l'Europa ha introdotto una normativa che si chiama bail-in. Sì. Quale regola la liquidazione delle banche in default. Sì. Ma applichiamola. Ma che problema c'è? Cioè, qui abbiamo un sistema bancario malato dove ci sono già dei cadaveri, facciamo l'inumazione. Cioè, a un certo momento c'è da prendere una terapia d'urto che sia però propedeutica a un risanamento del sistema. Il sistema è decotto, ci sono istituti. Non facciamo nomi, Monte Paschi tecnicamente fallito da decenni, ma perché continuiamo a mantenere in vita? Bella domanda, però Franco, che vuoi fare? Si aggiunge a una colita qui di minoritari che ragionano in maniera abbastanza simile a lei. Ha visto cosa è successo quando hanno fatto le quattro banche risolte sugli obbligazionisti? La politica è esplosa, come li ristoriamo? Li ristoriamo se per soglie di reddito e di patrimonio? Ci inventiamo le cose più fantastiche. E poi non sottovaluti, il mondo editoriale italiano ha replicato per mesi le tesi ufficiali della Banca d'Italia che dicono che il bail-in è sbagliato, che dicono che lei ha combattuto un'eroica battaglia di cui non abbiamo visto tracce, però se non ex post, contro il bail-in, contro la data per la sua entrata in vigore, chiedendo che venisse applicato ai crediti e ai debiti in divenire e non a quelli esistenti. Tante ragioni, Franco, naturalmente io la penso come lei. Però possiamo dire una cosa a margine e a latere. Il bail-in è il male minore rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, che vuol dire che se uno ha un debito presso una banca gli viene imposto di restituire i soldi di quel debito praticamente a vista. E soprattutto quello che dobbiamo rimarcare è che i tentativi di mettere in cordata le banche sane e salvare, diciamo, dal bail-in quelle che non ce la fanno, portano a una contaminazione, a un contagio dell'intero sistema. Queste sono cose che vi diciamo da sempre. Adesso non è per fare come qualche prestigioso personaggio che gira dice, e io del resto in un mio libro avevo previsto che il sole sarebbe sorto a est e avete visto che è successo. No, non è esattamente così. Le banche italiane sono sane, dice il governatore Visco. Sì, se continuiamo a metterle in cordata per evitare processi di risoluzione che comunque sono minore dei mali rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, che ripeto è un evento bellico, e probabilmente noi finiamo col contaminare, con l'intossicare il sistema. Intanto è il problema? Come si vede nei corsi azionari che spiegano perché poi la borsa italiana è quella che va peggio all'inizio dell'anno del mondo, ma detto questo abbiamo annullato, bruciato il minor premio a rischio che era incorporato in alcuni istituti come Intesa, esattamente per questo meccanismo cooperativo, e continuano ad avvenire cose formalmente inesplicabili e molto gravi. Caro Alberto, ci sei ancora? Sono. Ecco, perché la scadenza del termine, che era il 30 settembre, quindi all'inizio della settimana, in cui era la scadenza estrema, formale, della trattativa che andava chiusa per vendere il good bad delle quattro banche, non ha avuto nessun scaduto quel termine, chi avesse rapporti commerciali in piedi con quelle good bank non sapeva se il termine sarebbe stato rispettato, non rispettato, se a quel punto mandavano in liquidazione pure quelle cose lì, perché per giorni noi non abbiamo avuto una comunicazione ufficiale né italiana né europea. Una cosa non era gravissimo, caro Alberto? È grave, fammi dire, noi di solito difendiamo i principi fondamentali dell'Europa, stavolta però ci tocca essere critici, perché non si comincia così un buon sistema bancario europeo unificato. La colpa è della Commissione, però, non è della Unione Bancaria in quanto tale. Effettivamente il 30 di settembre era la scadenza, non era ordinatorio, non era perentorio, era una scadenza indicata, ma dopo quella scadenza la banca avrebbe potuto essere liquidata effettivamente. Per funzionare bene il meccanismo dei bail-in bisogna della certezza delle regole, altrimenti torniamo all'impianto solidaristico. Per funzionare le good bank devono essere vendute, non possono continuare senza nulla. E altrimenti non funziona il meccanismo e devono essere venduti in tempi ragionevoli. Poi il tempo fissato all'inizio, cioè fine aprile, era oggettivamente troppo stretto. Mi sta bene anche fare la proroga, però deve essere chiaro, non no, può tenere tutto nel capito, però non nell'arbitrio personale non si può fare. Secondo me è stato un segnale. Nessuno dei grandi media italiani lo ha notato. Noi ci siamo abituati al fatto di dover interpretare i segnali chiamando qualcuno che però non bisogna fare il nome in Banca Italia, chiamando qualcuno all'EBA, chiamando qualcuno in commissione. Non esiste in un mondo, cioè, ci sono dei termini. Entro quei termini bisogna che si dica al mercato, agli operatori, ai clienti che cosa avviene o non avviene. Invece questa volta è stata proprio una classica cosa all'italiana. Però la Commissione Europea è stata italiana però, insieme all'Italia. Però posso fare il contrarian rispetto a te, a Carlo Alberto? Non è che togliendo il termine rigido, cioè voi sapete meglio di me che un termine rigido danneggia il venditore e favorisce il compratore, quindi magari togliendo il termine rigido, sfumandolo, lasciandolo sullo sfondo, potenzialmente si recupera qualcosa in termini di offerte, perché non si va a dire arriva il potenziale compratore, dice al venditore: sai che c'è, tra una settimana scade, o prendi questo tozzo di pane o vai al diavolo. Questa che ne pensate? Questa è la tesi, diciamo, dei regolatori italiani, proprio quella che hai appena detto tu. Carlo Alberto, che dici? No, dico che è legittimo questo, è per quello che va fissato un termine lungo e non stretto, ma va fissato un termine, perché se è indefinito e il rinvio del termine è stato secretato. Esatto. Proprio diciamo invocando quello che sta razionalmente dicendo Mario, che è fondato. Sì, ma però non si può secretare i termini segretati, ma dai, ma è una cosa per me non si può vedere. Cioè. È il ritorno di Fazio su scala europea. Sì, su scala europea. No, purtroppo. Perché è il ritorno dell'arbitrio regolatorio, cioè dammi 3 anni, benissimo. Tra l'altro, esempio, siccome stiamo parlando di Commissione Europea, quindi con la Commissione Europea si può incardinare le norme al diritto di accesso dei dati, quindi appena entra in vigore il FOIA italiano, quella è una classica cosa che si può fare dall'Italia con principi europei alla Commissione Europea, perché io il termine secretato francamente ne faccio una battaglia di informazione giornalistica a tutela dei clienti delle banche, perché non è possibile tenerla sta roba così. Allora torniamo tra un minuto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, tornati in diretta con Oscar Giannino, Mario Seminerio e c'è anche Carlo Alberto collegato. Eccoci a voi. I termini secretati di vendita però non si possono vedere, Carlo Alberto, almeno questa è la mia opinione. Vediamo poi col diritto di accesso ai dati che cosa ci possiamo inventare, ecco, in termini pubblici come professionisti, non solo dell'informazione ma anche delle tecniche di mercato. Io ho un'idea che bisogna mettere in piedi qualcosa che va al di là di quello che può fare il singolo giornalistico, per cose singolo giornalista, per cose che sono di interesse pubblico. Detto questo, allora il tema su cui entriamo adesso è anticipato da un nostro ascoltatore che ci chiama da Firenze e che si chiama Luigi. Luigi, prego, perché ci hai chiamato? Perché volevi fare una domanda, no? Sì, no, siccome buongiorno innanzitutto a tutti, Un caro saluto al dottor Giannino, che io seguo tutti i giorni con Alessandro Mila nella mattina, e le faccio i complimenti per l'equilibrio, l'intelligenza. Troppo buono. Adesso pensano che ci conosciamo e che io la chiamo per questo. Cioè, non è vero, non sono dottore. No, assolutamente, non ci conosciamo altri. Allora, magari lo potessi conoscere per piacere. Andiamo alla domanda. Io, siccome nella presentazione stamattina avevate anticipato un tema, quello della break. E infatti è esattamente quello che inizia adesso. E lei ci chiede una cosa. Io ho una figlia che vive a Londra da 4 anni e quindi la Brexit la vivo quotidianamente, nel senso che ci sentiamo almeno 2-3 volte alla settimana. Sì. E da 4 anni mia figlia è andata a fare la scuola di giornalismo dopo la laurea a Londra 4 anni fa, e agevolmente prima cambiavo un lavoro con un altro senza difficoltà. Dopo la Brexit ha avuto grossissimi problemi, tanto da indurla ora a gennaio a rientrare in Italia. Non dico l'affitto che hanno raddoppiato, ma insomma anche nel lavoro, lei è lavorata in una grande azienda, quando è tornata in ferie in Italia prima della Brexit si era rotto un piede, tibia e perone purtroppo in una caduta, la rassicuravano che quando tornava aveva il suo posto amministrativo, e invece hanno preteso, quando è tornata, un certificato medico di un medico inglese che attestasse che lei era idonea a fare anche lavori pesanti. Altrimenti non l'avrebbero più assunto, non l'avrebbero più mantenuta. E quindi lui, insomma, Luigi è dovuta ricevere. Poi è andata a fare un colloquio alla Barclays, tanto per dire, no? Ha superato i primi due e c'era il terzo, ha superato anche il terzo, sembrava fatta dalle intuizioni che lei aveva avuto, invece poi gli hanno telefonato e gli hanno detto che per ora era tutto fermo, di aspettare. Quindi insomma Luigi inizia a essere un po' preoccupato per sua figlia. Devo dire che quello che è avvenuto questa settimana e ci ha indotto a parlare di questo tema, e ai miei occhi, io mi sbaglierò, evidentemente sto invecchiando, non sono più in grado di capire il mondo bene, però a me le parole della segretaria agli interni del ministro britannico della RUD mi hanno lasciato senza parole su questa cosa. Chiederemo alle imprese britanniche di fare le liste dei lavoratori per nazionalità, perché bisogna rendere evidente ai britannici i posti di lavoro che possono essere meglio impiegati prima con i britannici. Cioè è una cosa che qui dicono, cioè, c'è chi la dice anche in Italia, ma insomma non è proprio mainstream lì sentirlo dire dal governo. Dopodiché la London School of Economics dice: guardate la lettera che ci arriva dal ministero, qui ci chiedono di segnalare i cattedratici stranieri, perché si fa una lista di coloro che non possono più concorrere alle consulenze con il governo britannico per motivi di sicurezza nazionale. Dopodiché altre scuole hanno pubblicato altri inviti a procedere alla composizione di liste degli studenti per paese di nascita, segnalando quelli nati fuori dal Regno Unito. Cioè delle cose di fronte alle quali uno dice: ma sono impazziti. È vero che c'è stato questo discorso, il nuovo conservatorismo sociale di Theresa May di fronte ai Tories e così via, ma la domanda, cari ascoltatori, è: ma sta veramente cambiando qualche cosa il rapporto tra Gran Bretagna e Europa, al di là della Brexit, del negoziato? Qui siamo a temi, insomma, è la Le Pen in Francia che dice queste cose. Allora, siccome a risponderle nel silenzio europeo è stata, ancora una volta, pensatene quello che volete, Angela Merkel, che ha risposto alla May dicendo: se la Gran Bretagna crede di fare la furba, se c'è uno stop alla libertà di circolazione, le persone si sognano di poter fare rapporti nuovi su tutte le altre libertà, cioè quelle che riguardano i servizi, i beni, eccetera, eccetera. Quindi la vostra finanza ve la tenete a casa vostra se iniziate così. Mi ha molto colpito la durezza della Merkel, la chiarezza, perché io gli ho battuto le mani, ma sono senza parole di fronte a quello che avviene a Londra. Allora, chiediamo due opinioni su questo, anche qua, Gran Bretagna e Londra, con due osservatori. Udo Gumpel, come al solito, che conoscete, giornalista tedesco in Italia, grazie di essere con noi, Udo. Grazie a te, e grazie anche per questo assist incredibile, perché infatti tu hai detto che Angela Merkel non la conosciamo con i famosi e pugni che fate sul tavolo, questo di solito è una specialità di Renzi, insomma, esatto. No? Però... E che però quando la Merkel dice queste cose le realizza, e questa è la differenza tra Merkel e Renzi, capito? E allora la Merkel ha detto, in pratica, sì, anch'io rido, che io la conosco da tanti anni, ma raramente l'ho vista così. Una volta in una discussione con Putin sull'Ucraina l'ho sentita così, quando invece adesso l'ho sentita in questo modo. Questo davvero... E in realtà è un autogol pazzesco per gli inglesi, perché questo significa che ciò che ha reso grande anche Londra e la finanza inglese, ovvero l'arrivo dei cervelli molti italiani, moltissimi italiani, i migliori spesso sono andati in Inghilterra, e allora loro cacciarli è una cosa da mettersi la zappa sui piedi, è proprio quella assecondare questa profonda Inghilterra che non sa niente, la profonda Inghilterra che difende la britannicità inesistente, e questo peraltro, fatemi dire anche questo, in realtà è un gigantesco regalo alla Germania, perché il secondo paese, anzi tra i giovani, ormai è superato la Germania e l'Inghilterra, ovvero i giovani italiani, bravi, laureati, fantastici, imprenditorialmente creativi, quello che proprio alla Germania delle volte manca, fatemelo dire anche questa, no? Dove vanno adesso? Vanno in Germania. Perciò la Merkel ha un trionfo in questa cosa, perché è un autogol inglese, una ricaduta anni 50, e soprattutto gli inglesi credevano di poter ricattare la Germania col fatto che la Germania e le industrie tedesche vendono molto, molte merci verso l'Inghilterra, allora ci concederanno in cambio l'accesso anche per le merci inglesi, ma non hanno capito che per esempio le automobili, la Rolls Royce, la Mini, sono di proprietà tedesca ma prodotte in Inghilterra. Perciò, cosa importa alla Volkswagen o ad altre aziende, alla BMW, se producono di più in Inghilterra? Tanto le fabbriche sono loro, tanto le automobili e le marche sono loro, cosa gli importa? E poi la Merkel, quando è in ballo proprio la coesione dell'Unione, non bada anche agli interessi dell'industria tedesca rispetto alla Russia. Per esempio, nella crisi della Russia, le sanzioni sono state volute fortemente dalla Germania, nonostante che la Germania fosse il primo esportatore verso la Russia. Non l'Italia, è vero, sì, questo gli italiani, c'è stata italiani molto lo dimenticano. La Germania che l'Italia. Non parliamo sempre del cashmere, della ricotta italiana, che hanno avuto una ricaduta, ma la Germania vende industrie intere alla Russia e non le vende più, perciò comunque il prezzo da politico era da pagare. Va bene, però io continuo a non capire cosa diavolo sta succedendo nei conservatori. Va bene, ho capito che il Partito Conservatore in questi anni è diventato multianime, ho capito che le anime, diciamo così, più estreme vedono la necessità di fronteggiare i voti che si perdono di fronte a UKIP, però è anche vero che Il collasso, il collasso del Labour e l'imminente collasso, la decomposizione di UKIP, quindi probabilmente la May ritiene di avere la possibilità di espandersi in una maniera abnorme, però diventando un incrocio tra le penne, non si sa bene chi. Stai dicendo che in realtà la May potrebbe avere di fronte a sé un quadro confortante, perché con Corbyn scelgono l'opposizione eterna, i laburisti potranno avere più iscritti ma le elezioni non le vincono, e quindi lei invece di diventare più ragionevole lascia spazio a questi toni. Allora sentiamo da un'italiana, innanzitutto gli chiediamo anche lei, se anche per lei si pone il tema di tornare in Italia, no, credo di no, però una giornalista freelance che lavora da Londra, scrive per il Foglio, scrive per il Messaggero, Cristina Marconi, grazie di essere con noi. Ci spieghi un po' dal tuo punto di vista cosa diavolo sta succedendo nel governo britannico su questi temi? Allora, due cose. La premessa è che noi siamo tutti quanti con gli occhi fuori, nel senso internazionali, gli stranieri a Londra sono, a Londra, ma insomma in tutta l'Inghilterra e in tutto il Regno Unito sono sgomenti in questo momento. Allora, cercando di essere razionali, io cerco di trovare alcune ragioni, alcune motivazioni a quello che ha fatto Theresa May questa settimana e che ha fatto fare i suoi ministri, perché poi non ci dimentichiamo anche Jeremy Hunt della salute, che praticamente ha prospettato uno scenario di autarchia medica e sanitaria, esatto, da qui a 15, cioè una cosa. Cioè ha detto testualmente: i medici stranieri sì, ma fin tanto che noi non ne produciamo abbastanza di britannici, punto. Esatto, come se la classe operaia del nord da un giorno all'altro potesse diventare tutta, insomma, così, tutti a chirurgia. Ecco, insomma, è un po' veramente populismo abbastanza spinto. Io quello che cerco di, siccome ritengo che Theresa May sia una donna dura e ossessionata dalla questione dell'immigrazione, questo si era visto nei suoi anni da ministro dell'interno, però non credo sia pazza. Allora, da una parte lei non è stata eletta e quindi torniamo comunque al problema di una leader nazionale che comunque non ha un manifesto elettorale, perché quello di Cameron l'ha preso e l'ha stravolto, e comunque non ha un mandato popolare, chiaro. Dall'altra parte c'è il problema che si ritrova anche lei comunque a dover essere la prima ministra della Brexit, anche pur avendo fatto una flebilissima campagna a favore di Remain. E poi, come si è visto, penso come tutto il mondo ha visto, questa questione della Brexit alla fine si è rivelato un regolamento di conti interno al Partito Conservatore ed è il suo partito. Quindi sul fatto che lei comunque di questi tre elementi all'interno del partito debba tener conto, non c'è dubbio, non bisogna essere ingenui. In questo momento i britannici, va detto, che stanno pensando alla loro politica interna, hanno perso di vista del tutto i problemi internazionali, diciamo. Dall'altra parte lei ha ovviamente la tentazione di occupare il campo libero che si ritrova, perché UKIP da una parte ha finito il suo mandato, diciamo, una volta che ha realizzato la Brexit, il Farage può tornare, può pungolarla a destra, ma fondamentalmente sono finiti. Corbyn sta scegliendo l'arredamento di casa, non so che cosa sta facendo, ma non si è sentito questa settimana. Quindi lei semplicemente, insomma, altra cosa pazzesca. Cioè, scusami. Pazzesca. Cioè, che i laburisti di fronte a cose come queste non far fuglino neanche, non lo so, chiusa parentesi. Per me è come un mondo che non conosco più, però capitano queste cose. Continua. Allora, io penso che lei stia facendo questa forte operazione di branding politico. Gli amici britannici, osservatori, politici e tutto, mi dicono il classico convention di partito in cui si parla un po'. Così, e lei si spara grosse. Lei si spara grosse, però chiaramente dopo il 23 giugno hai i riflettori del mondo puntati addosso, quindi stai anche un po' attento. Per quanto riguarda la questione della comunità europea del Regno Unito, diciamo, noi poveri europei lasciati qui, è chiaro che uno pensa subito al banchiere francese un po' magari indignato di sentirsi trattato così dal discorso pubblico, però per esempio c'è chi ricorda che il momento in cui loro hanno un problema di infrastruttura, hanno un problema di abitazioni che devono costruire, ma senza gli operai polacchi, ma no, chi le costruisce queste case? No, ma c'hanno un banchiere centrale canadese, cioè, tanto per dire, non lo so, devono iniziare a cacciare molto dall'alto, ecco, prima di arrivare, esatto, ai... Ma penso che il banchiere centrale, se continua così, secondo me sarà prima che darsene via, perché se lo stanno tirando per la giacchetta da tutte le parti. Comunque, per quanto riguarda la Merkel, sì, io ho trovato le sue parole dure e chiare, però d'altra parte è una settimana che Theresa May, e vogliamo dirlo anche sono 3 mesi che Theresa May dice che lei del mercato unico non le importa niente, che lei comunque sia, se deve scegliere tra le due cose, scegli il controllo sull'immigrazione, che non vuole vedere rientrare dalla finestra quello che gli inglesi, i britannici hanno cacciato dalla porta. Quindi più di così io non so, io penso sia consigliata da persone molto scaltre per quanto riguarda il polso della nazione, il polso del paese, e molto ignoranti in materia di Europa. E in materia di quello che fa evolvere, perché una scelta così netta, siccome io a quel punto, che pure ero per negoziati lunghi e per negoziati non troppo puntuti, ma se uno mi dice niente libertà delle persone, io sposo la tesi della Merkel tutta la vita, allora ti sogni tutto il resto. Però regrediamo passo dopo passo, poi ci sono le elezioni francesi, poi ci sono quelle tedesche dopo, intanto c'è il nostro referendum e poi si vedrà se anche le nostre. Regrediamo verso un'Europa che non se ne rende conto, ma su queste cose sta ritornando a toni da anni 30, anni 30 sui nazionalismi, le espulsioni, gli sciovinismi, sei una spia, vai fuori dai piedi. Cioè, io sono senza parole, speriamo di no, ma o che vabbè, mi sbagli. Però Oscar, diciamo questo, adesso aspettiamo che procedano bene, i mercati stanno già dando una qualche valutazione. Beh, ieri mi è piaciuto molto un commento sul Financial Times che diceva: in questo momento il mercato dei cambi è ufficialmente all'opposizione del governo britannico. No, per cui io dico aspettiamo, poi naturalmente so che scandalizzerò tutti i sovranisti che dicono che non bisogna farsi piegare dai mercati eccetera, la mia è una considerazione di puro realismo, si fa una scelta, la si porta avanti, la si persegue e si considerano le conseguenze pratiche. E quello sarà un esperimento in vivo estremamente interessante. Hai ragione, allora non ci resta che ti fare il mercato che esprime i suoi segnali sul cambio della sterlina in questo momento rispetto a chi per me sta andando fuori binario. Grazie Udo Gumpel, grazie Cristina Marconi, torniamo tra un minuto. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Esatto. Ed eccoci qua nella nostra rubrichetta su, diciamo, circo della comunicazione pubblica italiana. Non è detto che sarà sempre politica, anche se per il momento è sempre stata politica la faccenda. Allora, anche questa settimana un tema politico che estrapoliamo da questa dichiarazione del Presidente del Consiglio. Volete sapere su quale quesito quelli del no hanno raccolto le firme? Questo. Cioè, il tema era talmente evidente che nel fare loro la loro richiesta di referendum non si sono inventati un quesito diverso, non hanno detto che è una truffa, ora stanno dicendo che sono io che me lo sono inventato con i geni del marketing, ma era la loro richiesta di votare su questo quesito, esattamente lo stesso. Allora, il Presidente del Consiglio risponde alla campagna di chi per settimane gli ha detto: ma avete messo una formula nel quesito referendario che sembra, volete voi, accettate voi la riforma costituzionale che farà vivere più a lungo tutti sereni e felici, continuare a fare sesso accoppiandovi come delle cavallette, eccetera, eccetera. Ecco. E, dopodiché, sì, l'informazione italiana, che ha un torto in questo perché ha secondato troppo a lungo queste dichiarazioni senza sapere che quel quesito automaticamente, figuratevi se la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale possono accettare una cosa simile, e l'intestazione formale della legge, la legge è stata presentata in quel modo perché appunto è vero, per Renzi lavora gente di marketing, però quella era l'intestazione della legge. Poi allora il no attacca, eccetera, e si scopre che anche quelli che attaccano la formulazione della legge, dimenticando come funziona la formalità del procedimento, in realtà hanno fatto un ricorso usando esattamente quella formula e chiedendo subito di intervenire su quella legge identificata formalmente nelle loro istanze con quella stessa dizione. Che cazzo di paese è questo in cui la comunicazione asseconda, perdonatemi, ignoranze fattuali così evidenti che alimentano per settimane polemiche politiche? Ecco, questa è la mia constatazione, la mia cosa che riguarda innanzitutto il giornalismo. Ma come vedete, i politici, però, in questo caso quelli del no, sono i primi che mettono in moto una cosa di questo genere. Allora, abbiamo con noi un avvocato, Rocco Todero, chiedendogli formalmente, per chi ci ascolta, questa storia del quesito, la sua formulazione, può semplicemente dire a chi ci ascolta che non ci sono margini nel nostro ordinamento per inventare dizioni diverse, perché sennò la Corte li bloccherebbe automaticamente? Come stanno le cose? Innanzitutto buongiorno. Esistono due ordinanze della Corte di Cassazione, una del maggio, una di agosto di quest'anno. Sono liberamente scaricabili su internet, e queste ordinanze della Corte di Cassazione, dell'Ufficio Centrale, riproducono tutto il procedimento del referendum e danno atto che i promotori del referendum, alcuni sono stati parlamentari di maggioranza, altri parlamentari di opposizione, altri ancora quelli costituiti in comitato referendario, hanno presentato, questo lo dice la Corte di Cassazione, quesito referendario che è poi quello di cui stiamo discutendo. Quindi su questo non c'è dubbio, a meno che non si voglia dire che la Corte di Cassazione stia dicendo una cosa falsa. Ripeto, ordinanze del 6 maggio e del 4 agosto. Questo è, diciamo, il primo punto. Il secondo punto è che, venendo sostanzialmente al ricorso che hanno incardinato presso il TAR del Lazio, questo ricorso, innanzitutto, a mio avviso, 5 Stelle, stiamo parlando di 5 Stelle 6, quindi questi perché stiamo parlando di 5 Stelle 6, tra l'altro, alcuni statori di 5 Stelle sono proprio tra i promotori del referendum, e le ordinanze della Cassazione poco fa danno conto dei nomi dei senatori, del conosciuto Crimi, uno dei presentatori del quesito referendario. Questo ricorso al TAR del Lazio, di anticipare un giudizio di un tribunale. Quindi, si sente malissimo. Questo ricorso al TAR del Lazio? Questo ricorso al TAR del Lazio, dico, innanzitutto, secondo me, è inammissibile. È inammissibile. Per un motivo semplice, perché si impugna un'ordinanza. L'ordinanza è un provvedimento giudizionale. E questo vedremo, però questo si tratta di forma. Però, stando sulla faccenda del quesito, cosa ci dice questo impugnatore? Sulla faccenda del quesito, diciamo, l'articolo 16 della legge 352 del 70 dice che devono essere indicati nella legge di revisione, devono essere indicati gli articoli. Però, a differenza di quello che sostengono i ricorrenti, in questo modo il quesito sarebbe ancora più complicato e più astruso di quanto è, certo, lo è adesso. Certo. Perché il quesito verrebbe fuori così: volete voi approvare la legge di revisione costituzionale degli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 73, tutti 49, esatto, tutti 49, concernenti poi una certa, e dice quali sono le materie su cui... Un'enciclopedia. Oimè, mi pare di capire che dobbiamo stopparci, perché la qualità del collegamento effettivamente non consente di capire. Però io ci tenevo semplicemente a dirvi che tutta questa canizza, come si dice con un termine in alcune parti d'Italia, è totalmente infondata. Totalmente, perché quello stava nella dizione della legge, quello che c'è nel quesito, non se l'ha inventato ex post qualcuno, non ci sono stati giudici corrotti questa volta. Tanto lo sapevano anche quelli che obiettano, che anche loro, quando hanno presentato il quesito referendario e anche di fronte all'impugnativa, a quella stessa lezione fanno riferimento, punto, non c'è nient'altro da dire. Chiacchiere inutili, perdita di tempo, polemiche che bisognerebbe diciamo esercitare in una formula un po' più costruttiva su cose concrete. Si può anche litigare bestialmente, ma su numeri, cose, fatti, non su stupidaggini inventate, al netto del fatto che poi io sorrido di un paese che intesta i suoi provvedimenti di legge in maniera così tra virgolette creativa. Ma questo ci dice semplicemente dell'Italia in cui viviamo. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, allora, caro Alberto. Non c'è più caso. Oscar, posso dirti che tanto tu che vuoi questo dibattito sul titolo, esatto, su quesito referendario, esatto, si parla pochi, come se la gente arrivasse in cabina elettorale, si leggesse il quesito e rispondesse, esatto, al quesito, ma anche concordo. Invece il dibattito, esatto, dovrebbe essere su le implicazioni, ma non solo giuridiche, forse anche economiche e organizzative di questo referendum. Ma questo noi lo faremo in alcune delle prossime puntate, prima del 4. Parliamo un po' di numeri, di cosa costa, non cosa costa, diciamo, in dirlo, ma cosa costano le conseguenze di questo referendum in maniera laica, tra sì e no. Sì, e certo, io direi che dobbiamo fare chiarezza su questo. Ma questo lo faremo, è un impegno che prendiamo con la nostra cultura. Ma tu capisci che, insomma, se io devo passare tutti i giorni a leggere i giornali sul quesito, dai. No. Comunque, che ci sia una tensione crescente anche sull'informazione oggi, c'è il fatto che dice che Renzi avrebbe detto che non si va più né da Gruber né da Floris, eccetera, eccetera. Diciamo, ci si arriverà con una conflittualità esplosiva, non so con quanta tensione sul merito. Tu che dici, Carlo? Dico appunto che dobbiamo tutti fare lo sforzo di spostare il dibattito sul merito del problema, su che tipo di diciamo assetto politico vogliamo, altrimenti vince la prevalenza del cretino, se posso dire. Guardiamo cosa è successo col referendum inglese, guardiamo i numeri del commercio internazionale. Ma tu non sei un po' esterrefatto di queste cose di Gran Bretagna? Lo sai che abbiamo scelto insieme il tema. Sono veramente arrabbiatissimo, perché l'Inghilterra è sempre stata per noi tutti simbolo della libertà, esatto, del merito, della selezione basata del fatto che nessuno ti chiedeva dove venivi, ma solo dove volevi andare, solo se avevi qualcosa da portare. Vedere in crisi questi aspetti mi mette veramente in preoccupazione, perché, ripeto, poi i numeri sono brutti, sono numeri di commercio internazionale che decrescono, a parte ovviamente nelle previsioni del DEF, come ha sottolineato Mario, cioè, magicamente crescono. I trattati internazionali vengono rigettati. Poi c'è qualcuno in Italia che propone di mangiare ciò che produciamo, sì, e produrre, sì, ciò, e produrre che ciò che mangiamo. Chissà perché a me vengono in mente delle cose irriferibili, perché... No, ma questo per dirvi, certo, magari la Sdabocconi potrebbe guadagnare se meno cervelli vanno in Gran Bretagna e vengono qua, però al di là è tragico. Sdabocconi è il più grande produttore di cervelli d'esportazione in Inghilterra, esatto, e francamente saremmo tutti imbarazzatissimi se questo avvenisse. Tornare al nazionalismo dell'intelligenza, anzi, al nazionalismo, al sovranismo della stupidità, perché di questo dobbiamo parlare, esatto, è una cosa che danneggia tutto. L'intelligenza è transnazionale, è la stupidità che è autarchica, mm-hmm, questo è il nostro motto. Renato, c'è anche il nostro imprenditore di punta, Renato Cifarelli. Buongiorno, allora come io lo so che hai fatto affiggere il testamento di Caprotti in tutte le cose della tua fabbrica, però... Come le tesi di Martin Lutero sul Duomo di Wittenberg. No, la tesi di Caprotti, quella del... La parte importante della tesi del testamento di Caprotti, quando dice che questo è un paese dove il successo te lo fanno pagare, poi la gente di successo se ne andava all'estero, se ne andava a Londra. Se anche là cominciano con queste storie qui, che se sei, dipende da dove arrivi, mamma, siamo veramente messi malissimo. Però tu non fare come Caprotti, non arrivare oltre la morte, no, a no, dire come si già, gestisce l'azienda. Ho già messo in le mani avanti. Esatto. Senti, invece volevo parlarti, siccome stamattina sui giornali leggevo che hanno messo i dazi, visto che parlavamo di produrre quello che mangiamo, esatto, mangiare quello che produciamo, eccetera, suggerisco di mangiare l'acciaio a questo punto, perché almeno sull'acciaio i dazi li hanno messi. Peccato che noi nel frattempo abbiamo quasi fatto fallire l'Ilva, perché essendo ritornata in mani pubbliche è in una situazione comatosa. Noi per la prima volta negli anni 50, nei primi sei mesi dell'anno, abbiamo più importato acciaio di quanto abbiamo prodotto. Non capitava dall'immediato secondo dopoguerra, cara. È la mano dello Stato che tutto fa, tutto vede, tutto provvede, tutto distribuisce ad altre mani dello Stato, tendenzialmente. Vabbè, comunque. Tra l'altro, su questo c'è un'importante partita internazionale che adesso vedremo, perché il Parlamento europeo, stiamo parlando della concessione della clausola di economia di mercato alla Cina. La Cina lo dà per scontato da parte dell'Unione Europea. La Commissione è favorevole, sia pure trattando su alcune cose. Il Parlamento europeo ha votato contro. Tra i grandi paesi, l'Italia è l'unica che ha formalmente chiesto il contro, perché i tedeschi sono favorevoli a dargliela. E vedremo, perché l'acciaio è proprio quello di cui parli tu, è proprio uno degli aspetti fondamentali, perché dietro c'è una questione tecnica molto complicata. Secondo i 5 criteri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, loro possono anche dimostrare a tavolino che li adempiono, e quindi sono economia di mercato. E in particolare però su alcune questioni secondo me no, quindi però lì bisognerà vedere, perché siccome l'aria che tira è quello di tornare indietro sui grandi accordi internazionali, vediamo l'Unione Europea che cosa sceglie. Tu cosa vorresti concedere a Renato è una partita molto difficile questa qua, perché allora tieni conto che le aziende cinesi fanno dumping in più o meno tutti i settori, perché la maggior parte delle aziende sono statali, anche nel tuo, statali, ma anche nel mio, perché fai conto che con quello che noi compriamo i 3 componenti principali della macchina, loro ti vendono tutta la macchina. È vero che i prezzi possono essere più bassi, però è vero che la qualità è infinitesimamente, ecco, quello che hai toccato è esattamente uno dei punti, lontana, esattamente uno dei punti. Però, sull'acciaio, il computo dei prezzi interni, dei costi di transazione, i prezzi interni che loro propongono, secondo me non è accettabile secondo lo stesso standard dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché sono distorti dai sussidi in maniera pazzesca. Però questioni tecniche, però su queste gioca una parte fondamentale per l'Italia e la Cina. Sulle questioni tecniche ti scontri sul mercato, perché se poi io vado a vendere in Nord Africa contro i cinesi e loro hanno le banche che gli danno i soldi, sono sussidiati dallo Stato, eccetera, eccetera, io il mercato poi lo perdo. Carlo Alberto, che dice da questo punto di vista? Meglio dargliela o non dargliela la clausola? Tu sai che sono un grande tifoso dei rapporti con la Cina e sarei poco obiettivo, ma secondo me sarebbe un gran segnale di normalizzazione, perché vorrebbe dire anche per loro smettere di farle quelle cose. Dipende da come si scrive, ecco, se lo si scrive bene. Però diciamo ancora una volta, il segnale sarebbe essere forte di un mondo che non ha paura di confrontarsi con la Cina. La Cina sta investendo tanto in Europa e sta investendo tantissimo in Italia. Io ve lo dico subito, sono assolutamente favorevole a prendersi questo rischio. Il protezionismo non è mai un'opzione primaria. Certo, bisogna ingaggiare. Questo sono d'accordo con te, però ti dirò, Gozzi ci ha fatto vedere riservatamente come loro calcolano il meccanismo dei prezzi dell'acciaio sul mercato interno. Beh, devo dire che Gozzi, il presidente del Federacciai, che dice: guardate, dobbiamo i cannoni, ma non per non dargliela, cioè bisogna fargliela riscrivere questa roba, perché ci stanno prendendo per il culo. Ecco, questa, devo dire, tecnicamente la dimostrazione, io la penso come Carlo Alberto, capisco Renato che ci dice: guardate che ci fanno comunque a pezzi, dovrebbe esserci un negoziato di quelli col contro capperi, per così dire, non usare un'altra parola. Comunque, grazie ancora a tutti voi, compari Conti da Belva, e al fatto che riusciamo a fare un'informazione, diciamo, non troppo allineata su queste cose. Comunque, continuate con Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina lunedì mattina alle 8:20, con Attenti a Noi Due. L'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo